Prima edizione. Sono le 6, 15 minuti e 20 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Oggi magari diamo anche un po' più di spazio a questi e quantomeno appunto un'occhiata generale. Poi per gli approfondimenti vi rimando come sempre ad Alessandro Milan dopo il GR delle 7 con una rassegna stampa appunto un po' più approfondita. Iniziamo dal Sole 24 Ore, l'apertura di oggi è bot al 6%, ma lo spread scende, e anche Napolitano che vede Monti, saremo all'altezza, Obama telefona, fiducia nel nuovo governo. Da segnalare di spalla il titolo sulla legge di stabilità, nella legge di stabilità fuori dal patto i fondi per Expo 2015, in commissione sì al maxi emendamento. L'inchiesta che troviamo qua è quella dei finanziamenti facili BPM, della quale vi parlavamo anche nel giornale radio, con Ponzellini indagato a Milano, la firma del servizio è di Claudio Gatti. Anche oggi sul Sole 24 Ore il manuale antipanico, oggi si parla di comprare a rate, di come tutelare da credit crunch, mutui, prestiti e carte revolving, e poi questa vicenda del giallo sul downgrade di Parigi che ha fatto infuriare le autorità francesi, perché da Standard & Poor's è arrivata una mail non autorizzata, poi smentita, è stata aperta un'inchiesta. La Repubblica apre così: Monti, un lavoro enorme da fare. L'ex commissario europeo al Colle, abolire i privilegi. Obama chiama Napolitano, Maroni al Cavaliere, voto subito, salta tutto, comprese le giunte, la base dell'Italia dei Valori contro Di Pietro. Caos nel PDL, appoggio esterno o ipotesi Dini, Berlusconi non voglio rompere con Bossi. In retroscena di Goffredo De Marchis, la tentazione del PD, solo tecnici al governo, e Claudio Tito firma un pezzo, il Quirinale, nel gioco dei veti incrociati. A centro pagina il titolo sui mercati, la borsa cala lo spread, Bini Smaghi si dimette dalla Banca Centrale Europea. E poi vicende del maxi emendamento, maxi emendamento al traguardo dal 2050 in pensione a 70 anni, a cani e oratori 150 milioni, fondo speciale per il senatore sindaco di Barletta. Altri due titoli che segnaliamo sono quelli sull'11-11-11, ve ne parlavamo in apertura di prima edizione, è la data di oggi, e la leggenda Murdoch sul viale del tramonto, perché insomma si approfondisce l'inchiesta, la posizione di Murdoch inizia a fare un po' più difficile sulla vicenda, diciamo così, dello spionaggio da parte dei giornalisti dei suoi quotidiani. Monti, un lavoro enorme da fare, il titolo anche del Messaggero, il PDL diviso sull'esecutivo istituzionale, no di Lega Di Pietro, Bini Smaghi lascia la BCE, titolo di taglio centrale, pensioni, pressing dell'Europa, l'Italia deve fare di più, la borsa recupera, cala la tensione sui BTP, ma anche un titolo sul maxi emendamento, legge mancia, l'ultimo blitz della casta. E poi, storia che arriva da Roma, sarà scarcerato l'uomo che travolse a Roma due ragazzi. Il titolo è Uccise i fidanzatini, torna libero. Il Corriere della Sera, Monti Premier, nuove tensioni nel PDL. E poi un titolo di centro pagina dedicato alle previsioni dell'Unione Europea e all'apertura del cosiddetto caso Francia. Poi di questo torneremo a parlare nel corso di prima edizione. Ci collegheremo proprio con Bruxelles per capire un po' meglio, per cercare di analizzare quel che ha detto ieri il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Due storie che riguardano la cronaca giudiziaria, di taglio basso troviamo i titoli, diritti TV, finanza in azione a Viale Mazzini, film a prezzi gonfiati, si indaga anche sulla RAI, è il titolo del pezzo di Fiorenza Sarzanini, il sospetto che siano stati venduti alla TV pubblica film a prezzi gonfiati per evadere le imposte, e poi naturalmente Ponzellini sotto accusa con associazione a delinquere. Altre due notizie vediamo che troviamo sulla prima del Corriere Corriere della Sera. Borsellino e l'ultima confidenza alla moglie. Non sarà la mafia ad uccidermi, a firmare il pezzo è Giovanni Bianconi, e l'altra è che sono le scuse di Erpelliccia, il ragazzo che lanciò l'estintore durante la manifestazione a Roma. Apertura della Stampa e battaglia nel PDL su Monti. Berlusconi prende tempo, meglio il voto, ma i mercati non aspettano e i suoi si ribellano. Il neo senatore due ore al colle e telefonata Napolitano. Obama, anche qua titoli su BPM, e c'è un titolo della Stampa su un evento che in realtà è di ieri l'altro, però è venuto nella notte italiana, quindi ci sta che il titolo sia oggi, e riguarda Rick Perry, il governatore del Texas, che in TV durante il dibattito televisivo dell'altro ieri ha avuto un'amnesia di un minuto, nella quale voleva dire quali dipartimenti avrebbe tagliato per ridurre i costi della macchina pubblica. Erano tre, ha detto voglio tagliare questi tre, ha detto i primi due e poi gli è passato completamente di mente quale fosse il terzo, e quindi di fatto è affossata la sua, sembra essere affossata la sua candidatura alla presidenza per i repubblicani. Giuseppe Salvatore va giù, lo sai, sulla Stampa, firma un pezzo su Balotelli and Company che si allenano nel campo che fu dei boss, è la storia che vi ha raccontato poco fa Roberto Galullo. Andiamo ai giornali, se vogliamo, più politici, perché in queste giornate sono particolarmente interessanti. C'è puzza di ribaltone, non svendiamo il PDL, è il titolo de Il Giornale. Il tormento del Premier, meglio il voto ma i mercati non aspettano. Poi pubblicazione di una foto sul Toto Ministri, nel quale si vede Pietro Ichino, Giuliano Amato, Anna Finocchiaro, Rocco Buttiglione ed Enrico Letta, un pezzo a firma di Massimo Scafi, se questo è il nuovo che serve. E ancora, i banchieri killer non possono salvarci, pezzo firmato da Magdi Cristiano Allam. Sempre dal lato centrodestra, la Padania. No, titolo no, non ci stiamo e ora opposizione. Maroni e Calderoli ribadiscono, nessuno appoggio al governo tecnico Monti, Bossi non c'è programma, fuori controlliamo meglio, Berlusconi parla per lui. E una foto a centropagina con il simbolo e il nome di Goldman Sachs. Il Fatto Quotidiano titola Professor Monti attento alle trappole, ieri lungo colloquio al Quirinale, domenica l'incarico, ma il candidato premier non sa ancora su quale maggioranza può contare. Poi abbiamo Libero, giù dai monti, tutti si aggrappano a Super Mario convinti che faccia miracoli, ma non è così, il suo nome spacca i partiti e alla fine rischia di nascere un governicchio, allora è meglio votare subito. L'Unità, il PDL si spacca su Monti Premier, Berlusconi per il sì ma è guerra, rischio scissione. Infine il Manifesto, il titolo è con una foto appunto di Mario Monti, Monti dei Pegni, questo il titolo di apertura del Manifesto. Diamo un'occhiata anche ai quotidiani internazionali come la vedono. Allora, il New York Times scrive che Grecia e Italia cercano una soluzione dai tecnocrati, in sostanza questa la lettura che dà il New York Times, mettendo insieme non solo la vicenda di Mario Monti naturalmente, ma anche la scelta di Lucas Papademos come nuovo premier greco. Lettura simile la dà in parte il Wall Street Journal, sempre sulla vicenda italiana, che dice il frontrunner italiano è visto come un outsider politico. Molti dei lawmakers, ossia dei parlamentari che sostengono Mario Monti, sperano che egli possa fare quello che essi stessi non sono stati in grado di fare, cioè fare riforme non popolari per modernizzare l'economia italiana. Il Financial Times dedica l'apertura alle questioni finanziarie che riguardano il fondo salva stati, e però altre due storie interessanti vi vogliamo segnalare da qua, ossia la vicenda della Francia e di Standard & Poor's. La Francia è furiosa, così scrive il Financial Times, per l'errore di Standard & Poor's, del quale vi abbiamo parlato poco fa. E interessante sempre dal mercato obbligazionario. Secondo il Financial Times, i titoli di Stato inglesi stanno diventando una sorta, l'Inghilterra, la Gran Bretagna sta diventando una sorta di paradiso. I decennali, i titoli di Stato decennali inglesi hanno toccato il livello più basso dal punto di vista dei rendimenti dagli anni 50 addirittura. Il Times, l'apertura del Times è dedicata a vicenda inglese, ossia quella di Rupert Murdoch. Come sappiamo, insomma, c'è un ci sono nuove accuse che lo riguardano, e James Murdoch ha insistito ieri sul fatto che, insomma, non ha mai detto falsità al Parlamento. Le Monde dà una prospettiva invece un po' più verso il resto d'Europa, cioè dice: dopo Papandreou e Berlusconi a chi toccherà? Le Figaro invece apre sulla gaffe di Standard & Poor's e sostiene, però, Le Figaro, è una lettura appunto del quotidiano francese, quindi va presa come tale, che la Francia è contaminata, colpita a causa della crisi italiana. Il Guardian, infine, chiudiamo con un altro quotidiano inglese, apre con la vicenda Murdoch, però il sito è dominato da questa grande foto di Silvio Berlusconi. La questione è l'uscita di Silvio Berlusconi, che cosa significa dopo 17 anni per l'Italia. Anche di questo parleremo più avanti, perché abbiamo un'intervista con uno storico, con Lucio Villari, col quale faremo un po' un punto su questa che è senza dubbio una fase storica per il nostro paese. Prima edizione. 6:35 minuti e 20 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Andiamo a sentire che cosa ci racconta oggi Italia in controluce. Italia in controluce. È l'11 di novembre, vi parla Daniele Biacchessi. Quanti sono gli ostaggi italiani in mano a ribelli, pirati, delinquenti di ogni tipo nel mondo? Si fa di tutto per liberarli, per avviare trattative per la loro liberazione. Noi non vogliamo dimenticarli. Il reportage di Maria Luisa Pezzali. Personalmente ho subito quattro legature, ingabrettamento, più una bastonatura coi fiocchi. Anche qualche altro componente dell'equipaggio l'ha subito. Posso dire che per adesso sopravvivo ancora, però non so ancora per quanto, la resistenza può andare avanti. Io, come tutti gli altri, siamo proprio allo stremo. Dormiamo per terra, siamo costretti a stare seduti tutto il giorno sotto la continua minaccia di armi. Quello che avete appena sentito è il drammatico appello lanciato in diretta a chi l'ha visto il 26 ottobre scorso da Antonio Verrecchia, 62 anni, direttore di macchina della Savina Kailin, la petroliera sequestrata dai pirati l'8 febbraio scorso nelle acque tra la Somalia e l'isola yemenita di Socotra. Insieme a Verrecchia, nelle mani dei rapitori somali, ci sono altri quattro italiani: Eugenio Bon, 30 anni, Gianmaria Cesaro, 25, Crescenzo Guardascione, 40 anni, e Giuseppe Lubrano, 47, il comandante della nave, e gli altri 17 membri dell'equipaggio, tutti indiani. L'armatore, la Fratelli d'Amato di Napoli, non paga il riscatto, considerato troppo oneroso. La Farnesina, nel più assoluto riserbo, nessuno ci ha voluto rilasciare dichiarazioni, segue costantemente la vicenda. Ai familiari, scesi più volte in piazza per chiedere aiuto, è stato chiesto il silenzio stampa per non influenzare le trattative. A fine ottobre, il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica si è recato in Somalia per una missione Lampo, dalla quale è nato un messaggio congiunto con il rappresentante del governo locale, trasmesso dalle radio somale, per chiedere ai sequestratori l'invio di aiuti umanitari. Le condizioni degli ostaggi sono al limite della sopravvivenza, ha confermato in quello stesso drammatico appello un altro dei cinque, il triestino Eugenio Bon. Tutto l'equipaggio sulla mia destra è disteso qui a terra, fianco a me, che mi guarda con occhi speranzosi, sperando che ci siano qualche novità, mentre purtroppo sulla sinistra ci sono sempre pirati armati, questi AK-47 che giorno e notte ce li puntano contro e noi siamo qui prigionieri. per cui siamo tutti disperati in attesa di nuovi eventi. Uno dei problemi grossi sono queste navi militari che pattugliano la zona. Ogni volta che si avvicinano un elicottero fa un giro di perlustrazione, per noi sono grossi problemi, per tutto l'equipaggio prendiamo sempre botte, mazzate, insulti e violenze dicendo che sono navi italiane che si avvicinano e che tutta colpa nostra se si avvicinano e si sfogano sui nostri corpi. Ma i cinque della Savina Kaiden non sono gli unici italiani sequestrati nel mondo. Sono in tutto 16 i nostri connazionali nelle mani dei rapitori, tutti tra le terre e i mari del continente africano. Era la prima edizione di quest'oggi 11 novembre di Italia in Controluce. Vi saluta qui Daniele Biacchesi. Torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Minuti e 16 secondi. Tra poco andremo sull'attualità più stretta e parleremo di Europa, di quel che ci ha detto ieri l'Europa e della situazione economica in generale, anche magari in relazione a quello che è successo ieri con la Francia, ma dato che è venerdì ci prendiamo un filo di respiro in più, cerchiamo di affrontare le cose da un altro punto di vista, quello di uno storico. Il professor Lucio Villari ha appena pubblicato un libro intitolato Notturno Italiano ed è da questo che parte nell'intervista che abbiamo realizzato con lui proprio sulla fase che sta attraversando questo paese. È una fase notturna quella in cui ci troviamo, cioè siamo in attesa di una luce, in attesa di un cambiamento che non riguardi soltanto l'attuale crisi economica, ma riguardi tutto il sistema politico, culturale e morale del nostro paese. Questa è la visione, diciamo, storica del presente e dell'immediato futuro che io posso avere. Professore, ha l'impressione che si stia completando adesso una transizione che in realtà non si è mai completata, per così dire, da Tangentopoli? Ma è completata. Io direi forse inizia adesso finalmente quella transizione che era cominciata con Tangentopoli e che è stata interrotta dall'immissione nella vita politica italiana di un personaggio come Berlusconi per tutto quello che questo ha rappresentato. Io interpreto questi anni berlusconiani come anni appunto di interruzione di un processo di evoluzione democratica del nostro paese e quindi la transizione adesso dalla prima alla seconda repubblica comincia appunto in questi giorni. Ed è stupefacente che Berlusconi dichiari che con lui finisce la Seconda Repubblica. No, direi che senza di lui comincia adesso la Seconda Repubblica. Professore, guardando alla storia di questo paese, la breve storia di questo paese, a questi 150 anni, le viene in mente un periodo altrettanto difficile, di così grosso timore per il futuro? Numerosi periodi, anche più notturni di questo e più tragici di questo, diciamo la verità. Cioè noi adesso viviamo un periodo molto difficile, ma l'Italia in 150 anni ha vissuto tragedie molto più gravi. Io ne identificherei sostanzialmente tre, cioè la crisi di fine 800 con l'assassinio del capo dello Stato che era il re Umberto I, la prima guerra mondiale e l'immediata dopoguerra è il periodo del fascismo con la seconda guerra mondiale. Questi sono dei periodi veramente tragici rispetto ai quali l'attuale periodo è molto meno drammatico, solo che ora diciamo l'Italia era pronta a fare un passo in più, diciamo, verso la democrazia, la trasparenza, la purezza delle istituzioni e della nostra classe dirigente. Il periodo berlusconiano ha solo inquinato e degradato questo passaggio necessario, quindi è un problema drammatico, non tragico, ma dal quale speriamo di poter uscire. Così il professor Lucio Villari, noi ci portiamo un po' di più sull'attualità e salutiamo e ringraziamo per essere con noi sempre Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno. Buongiorno. Allora, con te naturalmente vogliamo fare il punto su quello che abbiamo saputo ieri da Bruxelles. Dal lato tanto delle previsioni economiche, decisamente negative per l'Italia, un più 0,5% di crescita nel 2011 e un più 0,1% nel 2012, e c'è già chi dice che la Commissione europea è stata fin troppo buona, e soprattutto sulle parole e sulle valutazioni di Olli Rehn, il commissario europeo agli affari economici e monetari. È stata una toccata abbastanza energica quella di Rehn, ci sembra di capire, Beda. Sì, è la conferma di come la Commissione europea evidentemente sta tenendo sotto pressione la classe politica italiana in questo frangente. Per lungo tempo si è pensato che l'Italia potesse non essere toccata dalla crisi debitoria. Si pensava che, nonostante l'elevato debito pubblico, il paese era al riparo dalle tensioni sui mercati, per tutta una serie di ragioni, a cominciare dal fatto che il debito privato in Italia è particolarmente basso. Poi all'improvviso, nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, anche l'Italia è stata coinvolta dalle tensioni del mercato. Risultato: la Commissione sta facendo molta pressione perché l'Italia metta mano al risanamento dei conti pubblici e cerchi in un modo o nell'altro di rilanciare l'economia attraverso misure di liberalizzazione. Perché la Commissione fa così tanta pressione sull'Italia? Semplicemente perché la Commissione, come peraltro tutti i governi europei, sanno perfettamente che l'Italia è un punto di passaggio cruciale. Fin tanto che la crisi colpisce i piccoli paesi come la Grecia o il Portogallo, la situazione è più o meno sotto controllo. Se invece viene a essere colpita l'Italia, e se l'Italia fosse costretta a chiedere l'aiuto dell'Unione Europea, evidentemente l'Unione Europea sarebbe in enorme difficoltà, perché l'Italia ha un debito molto più elevato di qualsiasi altro paese finora colpito, e perché significherebbe mettere sul tavolo una tale ammontare di soldi che l'Unione Europea dovrebbe dare forfè. Quindi ecco perché c'è pressione sulla classe politica italiana, perché metta mano essa stessa alla crisi italiana. Allora, Beda, ho un'altra domanda per te, però subito dopo la viabilità. Prima edizione. 6:47 minuti e 30 secondi, siamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. C'è un altro paese del quale si è parlato molto ieri, Beda, ed è la Francia, perché se è vero che poi sono state smentite le indiscrezioni secondo le quali Standard & Poor's sarebbe stata pronta ad un downgrade, è circolata un'email partita da Standard & Poor's che tra l'altro ha fatto infuriare le autorità francesi, ma comunque che si è rivelata falsa. È vero anche che Rehn ha parlato esplicitamente anche della Francia e degli sforzi che Parigi deve fare. Sì, la Francia è anch'essa sotto pressione, soprattutto nelle ultime settimane, per diversi motivi. Prima di tutto perché la Francia ha un deficit pubblico molto elevato, tra i più elevati dei paesi membri della zona euro, e ha un debito pubblico che è vicino al 90%. Vi è l'impressione a Bruxelles che il paese stia facendo relativamente poco per tenere sotto controllo i propri conti, tanto che il governo francese ha annunciato recentemente una manovra e un pacchetto di misure per ridurre il disavanzo. Allora, la Francia è importante per vari motivi. Prima di tutto perché è il secondo paese più importante della zona euro, più importante dell'Italia. Evidentemente, se anche la Francia dovesse essere sotto pressione dai mercati, la situazione diventerebbe estremamente, estremamente delicata. Il secondo motivo è più tecnico, ma è molto importante agli occhi delle autorità comunitarie. La Francia ha in questo momento un voto sul proprio debito alto, ed è il triplo A, che è il massimo possibile. Da questo voto dipendono tutta una serie di equilibri, a cominciare dal triplo A che è stato concesso al Fondo di Stabilità Europeo, che è lo strumento con il quale i governi nazionali stanno cercando di aiutare i paesi in difficoltà, Portogallo, Irlanda e Grecia, dando loro linee di credito. L'ISSF, come viene conosciuto con il nome, con l'acronimo inglese, è un fondo che raccoglie denaro sui mercati. Per poter pagare un rendimento basso, questo fondo deve mantenere il triplo A. Il rischio, se la Francia dovesse perdere il proprio triplo A, è che anche il fondo perderebbe il proprio triplo A, con il risultato che l'intero assetto istituzionale con il quale l'Unione sta cercando di aiutare i paesi in difficoltà diventerebbe molto più oneroso e quindi molto più rischioso. E grazie anche a Beda Romano per questi chiarimenti e per questa spiegazione sulla Francia, ci sembra francamente molto importante. Grazie Beda e buona giornata. Arrivederci. E un ringraziamento come sempre a Peter Bescapè in regia, a Viola Bottoni in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, noi ci risentiamo tra poco con il giornale radio.